questi ragazzi, la maggior parte vabbè vengono sfruttati. Qualcuno mi sta facendo una scusa, no, no, non vado perché io non voglio lavorare 13 ore al giorno, non voglio fare così. Come hai detto, Tino, tu vai di lì, parli e gli dici, oh, quanto mi dai di stipendio, quanto lo devo fare, quanto mi dai in più, se io mi trattengo 2 ore in più, 3 ore in più, è quello che uno stabilisce prima di iniziare. E vabbè, soprattutto di gente sicura, se al primo mese non ti arrivano a fare i soldi, io gli dici, ma vabbè, cosa vogliamo fare? No, ragazzi, molti di questi ragazzi, ci sono quelli seri, che quella che viene, che conosci anche tu, quella slovacca che se ne fa il mazzo, che le amiche sue sono andate e si muovevano anche a piangere perché non riuscivano a tenere quei ritmi, che li sfruttavano a coso, peggio degli animali. Purtroppo ci sono anche quelle persone, però non è detto che siano tutti così. Secondo me uno deve discutere prima di iniziare, senza avere il posto in banca seduto, perché tutti ormai vogliono il posto comodo in banca, che alle 5 è finito, alle 4 e mezza è finito, ti prendi lo stipendio e non fai nulla. Così no, sacrifici all'inizio devono fare tutti, soprattutto quelli che non hai mai fatto nulla, come hai detto tu, abituati a stare attaccati ai pantaloni del padre, hai dovuto andare alla mamma. Sì, vabbè, hai ragione, però effettivamente io ho avuto dei problemi perché il mio principale mattino non conosce nessuno, qualche mano che ci dia la mano al mese che c'era bisogno di gente. E quindi ho fatto fatica, nonostante tutti, insomma, che tutti quelli che conosco bravi, tra virgolette bravi, stanno lavorando, quindi non li cerco, ma non trovavo un manovale anche, come lo chiamiamo noi, lo chiamiamo mezza paletta, ecco, ho trovato un ragazzo di 25 anni, credimi, che mi aveva preso mano e devi fare questo, devi fare quell'altro. E così non è, cioè a 25 anni tu non puoi imparare un mestiere, a 25 anni io ero già maestro, cioè quello voglio dire, sarà. Hai detto bene, si impara da ragazza, se dici fate una politica, non voglio niente, ma io voglio ragazzi che abbiamo voglia di imparare, apprendisti 16 anni appena usciti dalle scuole, c'è una gara di studiare subito a metterti sotto, gente appassionata, non gente che a scaldare come si dice il banco a scuola. Tanto siete cuoco, manichia. Vabbè, cosa c'entra? Ciao Luca. Purtroppo c'è chi nasce e c'è chi no, non è che c'è chi trova la pappa pronta, come soprattutto questi ragazzi oggi che effettivamente non escono da scuola e hanno tutto sotto il culo. Io sinceramente parlando, io parlo sempre di me, non parlo degli altri, io parlo di me, a 14 anni che non avevo voglia di studiare, ho intrapreso il mondo del cantiere e da lì poi mi sono fatto le ossa. Ciao Luca. Dai, ciao Tino, ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Claudio. Dai, io sono da Milano allora, per quello che faccio, grazie a Dio, non posso lamentarmi, ma tira a campare. Dai, che è pronta la cena. Ciao Luca, buonasera anche a te. No, io so perfettamente quello che ho detto e quello che dico e quello che dirò sempre. Io i parassiti ce li ho nel palmo della mano e quindi so chi so. Chi ha voglia di lavorare e si arrangia a lavorare, anche se purtroppo in certe circostanze è difficile oggi per l'età che abbiamo entrare a lavorare, ma a meno che non hai un mestiere ben preciso come può essere Tino, che ha un mestiere di scavaturista, palista, con tanto di patentina eccetera, allora nello specifico un'impresa cerca quello ed è chiaro che vai a lavorare, come ho fatto io, come conduzione di impianti di depurazione e potabilizzazione, devi avere fatto dei corsi, delle cose eccetera eccetera, ma al di fuori di tutto questo continuo a dire che ci sono tanti parassiti che non hanno voglia di lavorare perché sono alle spalle dei genitori e qua chiudo. Ok, io vi saluto, grazie alle due chiacchiere, grazie al question, molto interessante, molto diciamo allargato come discorso. Ciao Tino, ciao Luca, ciao Antonio, ciao Roberto, ciao a tutti, dai, io vado a cenare, se ci siete a dopo, altrimenti a domani, grazie di tutto, ciao ciao. Sì, riprendo io, ciao Claudio, ben sentito, dai. Vai Tino, poi Antonio, poi Luca. Ciao Claudio, ciao, guarda, questo discorso è non va a iniziare, neanche da terminare, perché c'è un sacco da dire, dai. Va bene, buona carica, ciao Claudio, vai Luca. Ciao Cla, buona carica, ciao a tutti. Avanti Anto. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossimine. Io oggi ho sempre travagliato e quando non faccio il bombolaio, se mi chiedono altri lavori vado e li faccio. perché mi applico un po' a tutto, mi applico, ho imparato tante cose. Poi adesso, cioè, ho imparato ancora di più da quando, diciamo che sono andato a conto mio, che sono con la mia compagna, che vivo con lei, ho imparato ancora di più di tante cose. Perché un po' ti devi arrangiare da solo, non c'è nessuno che ti fa le cose. Quindi la mocca da un naso già me la so togliere, grazie a Dio. Si ci ha pure sugli 22 di lavaggio l'ammazzo. Oh, amico mio, il porto a Torres, Ciao Luca, buonasera a tutti, di nuovo. Ciao Rogerio. Cazzo, ho già avuto un mal di testa. Vabbè, mi sono fatto i capelli corti, forse magari ha preso freddo, cosa cacchio ne so, ma di testa brutto stasera, ragazzi, stasera, dalle da pranzo, c'ho poco, mi sono preso occhi task, non mi ha fatto niente, va, più tardi dopo mi sono preso un occhi, quello a bustina più grande, e dopo, va, io forse mi sono passato intorno alle 8, poco fa, là, ma di testa brutto. Ma sai cosa devi fare lui? Prendi una cuffietta di lana, la scaldi proprio a fare mettere calda col fondo dentro, poi te la metti in testa e vedi che ti favorisce, ti dà piacere. Mamma mia, ho sentito il corso, ma di più di lavoro state parlando, noi ci minnando. Mamma mia, sono gallergico. Ciao a tutti, buonasera e ci sentiamo che pronta la più tardi se ci siete. Ma se sei cugino poi sei mandrone mia, io oggi non vi credo. Mandrone solo, io non ho sposto il cane, mi ti con l'altro, non l'ho preso. Oh, comunque ragazzi, io per guadagnarmi la giornata oggi, la giornata è una cinquantina di euro, ho dovuto camellare, andare a piedi, se volevi guadagnarli, l'ho guadagnato, ho fatto tutto il cammino, e uno sarà già così, e cosa vuoi fare, purtroppo è un casino, poi vediamo, dai, vediamo l'anno nuovo cosa esce. Tutto bene, bravo, così si fa, non bisogna andare a farsi previnti, perché sennò poi è un casotto. Ragazzi, anche io la riapprofitto che è già pronto il lancio, come si dice qua in caserma, che faccio il generale, capito? Niente, riprendi roba, dai, aspetta saluto che vado via. Ciao Tino, buona cena e buon tutto, dai. Ok, vai Luca. Ciao Tino, salutoni, buona cena e buon tutto, alla prossima. Vi posso dire una cosa, che a me mamma non mi ha dato un cito, ma arrangio io da solo, come ho sempre fatto. Quelli che guadagno me li tengo io, lei si tiene i suoi, e io mi tengo i miei. Va bene, d'accordo ragazzi. Ciao Muscolo, senti in bimbo, ciao. Ciao oggi, ci risentiamo. Purtroppo non siamo fortunati noi, se vorremmo mangiare ci dobbiamo arrangiare. Allora guarda, c'è da dire anche questo, anni addietro, ti parlo di qualche anno fa, tipo adesso, 15 anni fa, non c'avevo la licenza media, forse fa anche 20, non c'avevo la licenza media e mi volevano far entrare al lavoro, adesso non mi ricordo che lavoro era. Presa la licenza media, poi siccome la licenza media non bastava ci voleva la patente, presa anche la patente e andava niente il lucro, vabbè, non ho aspettato queste persone che mi hanno promesso, però meno male che mi sono rimboccato le maniche e piano piano sono andato avanti da solo. Dai, io ho sempre detto Luca, nel suo coso, nel suo piccolo sei sempre arrangiato, no? Perché ci sei tu, l'ho sempre detto a tutti Luca, sei sempre riuscito, diciamo l'arte di arrangiarsi, sei il numero uno perché riesci sempre a fare qualcosa, a recuperare qualche spiccio che ti permette di andare avanti, e quello è un grande senso di ammirazione che ho sempre avuto verso di te. Robe, guarda, ti dico una cosa, come si dice? Io con i miei piccoli lavoretti forse ho superato 10.000 euro, li ho superati di brutto. Sì, credo, ma scusa, ma Eugenio è andato via o è rimasto? Abbiamo salutato Eugenio. Ho salutato Tattino, Eugenio pensavo stesse rimanendo. Capito Robert? Messi da parte, piano piano, così. E così, guarda, ti qua adesso mi stavo facendo queste monete, ho iniziato, a 500 mi blocco, poi 600, 700, sono arrivato a 800 euro già. Adesso mi blocco, invece sto continuando ad arrivare a 900, voglio arrivare a 1000 euro. Vediamo se prima di Natale arrivo a 1000 euro in monete. monete di coso, c'è di euro. Da 2 da 1, vediamo. Roba, la fortuna di queste cose che so fare tante cose. Soprattutto con questi telefonini che li so riparare. Se no ho un casino. E poi tutto il resto che so fare, non è solo quello. Non lo so, io te l'ho sempre detto lì, Luca, io per quel pochettino che ti posso dare qualche piccolo lavoretto da fare, quando te lo posso dare te l'ho sempre dato, non mi sono mai dato indietro perché so che c'è capacità e passione soprattutto, non sei un madrone, ti arrendi a fare tutto e quello è molto, molto importante. Come ha detto Claudio che stavo ascoltando, purtroppo c'è gente mantenuta, gente grande, io conosco gente grande, adulta, anche più grande di me, mantenuti, che è una vergogna. Vabbè, a me mia madre non mi mantiene, tranquillo. Non, io se devo comprare una cosa vada, me la compro i soldi miei, i soldi che lavoro, ho un po' di attrezzatura, perciò non, guarda, posso dire di essere fortunato, purtroppo non ho un lavoro fisso, però non mi posso lamentare, grazie a Dio, no, va bene così, dai, poi se c'è qualcosa di migliore, ben venga. Fai anche lo stato di scomparire, No, anche io già mi arrangio, so fare anche altri lavori, ti so fare, capito? Piano piano, cosa devo fare? Purtroppo ti devi arrangiare, ti devi, se vuoi campare oggigiorno è così. Beh certo, uno si deve arrangiare. Uno si deve arrangiare, altrimenti la cosa è tribula. Avanti Roberto. Certo, io diciamo sono stato favorito perché avevo già un lavoro con l'officina eccetera, ma io a 7 anni ero già in officina, tutti gli anni, tutti gli estati, finite le scuole e poi quando sei più grandicello andavo anche, anche dopo la scuola durante l'anno, quando eri un po' più grandicello dalle medie. L'estate era matematico, da quando avevo 7 anni in su sempre facevi quasi niente, dai, dare una mano a fare, portami questo, fai quello, fai pulizia. Da 7 anni io sempre ininterrottamente in officina e poi quando sei diventato più grande, come hai finito gli studi è fisso, però quando ero ancora alle medie e dalla sera finito lo studio io sono in officina, un'ora, due ore, dipende da quello che è il tempo che avevi dopo gli studi e così. Alle superiori non ne parliamo, non abbiamo mai avuto, ci ha insegnato la parte sempre a non sprecare niente, a non fare il passo più grande della gamba, non ci mancava niente, però non ho mai fatto lussi di quelli che si vanno. A me non mi puoi dire niente di quello. Lussi roba. Adesso vediamo, dai, vediamo di. Passo quest'anno, è andata così, ma posso dire che anche quest'anno è stato abbastanza fortunato per me. Vabbè, dai, c'è di peggio, alla fine non posso lamentare. Sincero, non mi posso lamentare. Avanti a tutti. Ma guarda, quando uno si applica, lavora tutti i giorni, c'è già i soldi, c'è poco da fare. Sì, comunque Robè, tu oltre l'officina avevi altre passioni pure. Certo, io ne ho tante e pure troppo di passioni. La radio è la valvola di sfogo, ma io con la questione dello sport ero impegnatissimo, ma impegnato un bel tutta la settimana, fine settimana, non sbagliamo allenamenti, partite, eccetera, eccetera. Io seguivo due squadre, poi tornei, un sacco di cose, poi organizzavo tornei io, sempre pieno di cose. Avampo, caretto di manco. Diciamo per certi versi di meno, però c'hai altre cose diciamo più delicate, dai, che quando sei sposato c'è la famiglia eccetera, io vabbè sono divorziato, però c'hai le figlie a mantenere, cioè ci sono delle preoccupazioni più grandi, dai. Già lo sai, piano piano quello già si fa, roba piano piano, quello purtroppo succede nella vita. Importanti sempre a testa alta, che non ti manchi a nulla e via. E mi pare che facevi anche la radio. guarda, tanto se mi metto a raccontare la mia vita, io posso dire grazie a Dio non mi sono mai fatto mancare niente. Parliamo di la vita, me la sono goduta, non parlo di mancare niente, di varomaco, di comprarmi la Mercedes, la BMW, quello non me l'è mai fregato, ne ho avuto sempre macchinette piccole. La macchina mia è una multipla del 2001, finché cammina, c'ha 320.000, 325.000, finché cammina mi tengo qua, non ho nessuna intenzione di cambiarla, anzi se si dovesse rompere anche mezzo con un altro motore mi tengo quella lì, perché sono pienamente soddisfatto. E ti ripeto, ho avuto possibilità di comprarmi tutto, qualunque macchina, non me ne affutti nulla, io faccio sempre il passo piccolino, non mi interessa niente, preferisco prendere quei pochi soldi che mi risparmio, mi compro qualcosa che mi interessa per i miei ubi, però investire soldi in macchine, apparenza, vestiti, scarpe, giubbotti, che con mai, tu a me quello non me lo puoi, mi compro, non me ne affutti nulla di avere le scarpe da 300 euro o i pantaloni della Levi's, non so, firmati da non so cosa, non me ne è mai fottuto nulla, ma mai, oppure di prendermi mettermi un mutuo, una finanziaria per comprarmi una cosa che non mi posso permettere, non ne faccio, io faccio tutte le cose e ti posso dire, ho fatto di tutto di più nella mia vita, non ho niente da recriminare, anzi, se avessi avuto la possibilità di avere ore, anziché 24 ore, averne di 48 ore, ne avrei fatto ancora di più, purtroppo le ore sono, le giornate sono di 24 ore, a me non mi bastano 24 ore per quante cose ho in testa e inventiva che ho. Insomma è già una cosa bella comunque, è una cosa bella. Ne ho pure troppo, il problema è che io sono un appassionato di tantissime cose e gestirle non è semplice. Vai Luca. Infatti, vabbè, uno quando lavora poi si vuole comprare qualsiasi cosa, lo fa, non è che arrivi, uno devi comprare pure. Sì, ma non sono vizioso Luca, io se c'è una cosa, per una radio, parliamo un esempio di una radio, non è che è bella, a me mi piacciono tanti, ci sono tante radio che mi piacciono tantissimo, potrei comprarla, però dico chi devo prendere 3.000 euro, magari aspetto, ti capita l'occasione, dice se mi ce n'è una 800 euro, ci penso, mi metto i 50 euro oggi, 50 domani, non mi devo far mancare cose più importanti, perché quelli 10 a Natale l'anno scorso mi sono regalato una bellissima radio, ho trovato un'occasione, ero da tanto tempo che la desideravo, l'ho trovata a un prezzo molto ma molto basso rispetto al mercato, detto, mi faccio questo regalo a Natale, ma una volta all'anno, non sono tipo per dire che ci butta soldi così, esce mi piglio una radio, poi me ne prendo un'altra, a me mi è riuscita un'altra nuova, io c'ho mio cugino che fa lavoro mica, io dico ma come cavolo fai tu, ogni cosa che esce lui se la compra, cellulare l'ultimo uscito, lo smartwatch, le scarpe non so cosa, la macchina ne cambia minimo 10 all'anno, ne cambia, vabbè lui la carrozza lo fa anche per lavoro, sta sempre cambiando macchine, non meno di 8-10 macchine all'anno lui se le cambia. Robe, vuol dire che ha la possibilità di farlo, altrimenti cioè, come si dice, uno alla fine quando ha la possibilità lo fa. Io faccio le cose in base alle mie possibilità, altrimenti non ne faccio, non mi interessa. Ma io non mi ho mai messo un debito di 10 lire in tasca con nessuno, no, anche se prendevo la roba me la potrei comprare. E ti dico dai, ma paghi quando vuoi, prendi, ma sai quanti amici, fratelli, prenditi quella lì, te la do quando vuoi, ma paghi quando vuoi, no, te la usi, poi se non ti piace me la restituisci. Mai, io non ne ho mai fatto di queste cose. E questo mio cugino, Ghito, è sempre minimo 4 volte all'anno si fa le crociere, ma non una volta, 4 volte, poi si compra quello, si compra quell'altro, e dico buh. Ma come ti va? Lui se c'ha 1.000 lire ne spende 2.000. Sì, ci credo, vabbè, avanti anche tu. Cioè, non è possibile, ma va pure problemi, no? A meno quello è a posto, perché non è possibile spendere questi soldi. Non so, lui è da solo adesso, vabbè, si è trovato una compagna, c'ha un'attività che diciamo lavora, però lui cioè, tutto quello che è in cassa se non lo spende, non è di tipo ma riesci me ne metto da parte, poi faccio quello, lui si deve divertire, lui la vita sua è divertimento. E magari se sta a casa. No, già vive con la mamma, già vive da casa. Beh da cosa? Beh, con tuo sogno non può vivere. C'è marma, macchina. No, lui l'ha sposato, si è sposato, è durato 3 mesi. Come te tu la doppia giorno di nozze, 3 mesi dopo si sono separati. Per da cosa? Adesso tutto padiglia gli è andata male. Adesso c'ha quest'altra ragazza, speriamo una ragazza madre, che va bene, dai, però cacchio, io molto volte rimango a bocca aperta, ma come fai a fare questi tenori di vita tu con il lavoro che fai? Tu tutto quello che è in casa, miglia e se lo diverte. Robert, ti dico una cosa, qualche anno fa, parlo di allora, Mario, ci sono 6 anni, 8 anni, 10 anni fa. Insomma, come ingranavo bene quando facevo computer e telefoni. Cazzo, ingranavo alla grande. Perché prima i PC li riparavano, qualsiasi problema, adesso non li riparano più, li buttano. È vero, ma è tutto, è perché i televisori che hanno a più. Infatti. Ingranavo bene i soldini, la verità, non. Ragazzi, Mario, dunque, andiamo un passicciatti, diciamo così, là. Buttati così. Comunque, vabbè, pazienza. Già, quello che... Vabbè, qua mi zeccano i battuti, roba, per qualche... per qualsiasi cosa, ma se mi fa pure un tassello, mi metto un po' di canaletta, per piazzare chi su chi è, a tutti mi zeccano, lo sai fare? Ci vengo, ci provo, lo faccio, e glielo faccio. Vabbè, che ho anche l'attrezzatura, ci vuole l'attrezzatura, Sì, ma poi una volta che ti conoscono, se c'è 10 clienti te ne portano altri 3 di media, 30% di più, poi quei 13 diventano 16, 20, 25, è tutta una cosa esponenziale. Alla fine ti fa una cerchia di clienti, di amici, mica c'è Luca che ti può aggiustare quello, mica cosa Luca ti può mettere una presa a casa, mica Luca ti può sistemare la antenna, alla fine diventi conosciuto e se lavori bene onestamente, e tu lo stai facendo onestamente il lavoro, non sei tipo che ti dà fregatologia. Una signora in officina mi ha fatto una bena e hanno tirato una fregatura allucinante. Quando l'ho letta a questa amica ho detto, ma tu stai scherzando, ecco, fuori di te. Purtroppo poi sono quelli che ne approfittano. Che fregatura gli hanno fatta, Roberto? Come lui? Che fregatura gli hanno tirata questa signora? Una gomma con la macchina, le ha pagate 400 euro. Sono andato a questo amico e ho detto, ma scusa, ma quanto costano? Come di macchina mai sentita, chissà, Cermoni, un nome così, tipo Champion, un nome così, che sono gomme cinesi, proprio costruite in Cina, sono di, per essere cinesi sono di discreta qualità. Lui le vendeva 64 euro, e le aveva fatte pagare 100 euro l'una. No, mettiamo queste signora, perché queste sono le gomme del primo impianto. Purtroppo c'è sempre il furbo. Vabbè, bisogna stare attenti, io vado da cosa a mettere le gomme, da Caro, Caruccio, però già è onesto, da Agnesa. Allora, quello vicino a me è il numero uno, quello fornisce tutti i cosi della provincia di Sassari, il più grosso della Sardegna, in Italia ce ne sono pochi, perché vende 100.000 gomme all'anno, e non è uno scherzo vendere 100.000 gomme, ed è una potenza allucinante, tutti i cosi, quelli che pagano naturalmente, perché quelli che non pagano poi fanno il doppio passaggio, passano da lui, per cui meno di lui nessuno le può vendere le gomme. Certo. Vabbè, se uno... onesto, alla fine, allora, da cosa le pago? L'ultima volta le ho cambiate, 120 euro, 60 euro l'una. Ma che misure le hai preso? Aspetta, l'ultima volta le ho cambiate marina, perché le è per la Ford Fiesta, 165/80, Sì, certo, la 15 o la 14? Invece la 14, Robbe, non lo so. E che manca ha messo? Non me lo metto, Kleber, può essere. Sì, Kleber sono buone, dai, il gruppo Continent, Tamarum, sono buone gomme, dai, di prima scelta, non sono scaccine, perché adesso tu, ma quello mi ha fatto pagare 100 euro le gomme, io sono andato a quello, mi ha dato 60, sì, che gomme da lato, ma io sono gomme di terza scelta, gomme cinesi, coreane, anche se coreane stanno facendo anche loro belle, le Kumo sono belle, le Hankook, sono gomme buone, dai, ci sono anche altre macchine, oltre che Bridgestone, Michelin, eccetera, eccetera, stanno facendo dei prodotti buoni, anche coreani, però ecco, se ti dai delle gomme cinesi, perché adesso tu se vai su internet dici ci sono gomme a 30 euro, ma lascia perdere. Non lo so, buon gomme non si viene a nulla, ma secondo che fai da parte ne hai scelto battistrada, avanti tu, 5 minuti per me arrivo subito. Chi non lo so, già lo so curiamo, ti date di sì, le più barate 50 euro, 55 euro. infatti si sciolgono subito, secondo cosa devi fare dura un poco. Adesso guarda, tu dovete partire dal principio che nessuno regala niente, questo è il primo principio. E il secondo principio, stare attenti a quelli che cosa, che i furbacchioni, dai. Non pagare né troppo poco né troppo, però è preferibile pagare troppo, al limite hai perso solo soldi, se invece hai pagato troppo poco hai messo un bel. Non so. Guarda che tu che sei imbecille, non si può dire che gli ha fatto pagare le gomme così care. No, non glielo ho detto, non glielo ho neanche chiesto, comunque gente di sai, non puoi fregare una donna anziana, poverina, mi ha fatto pure pena, mi ha fatto mettere la gaffa in un lavoretto, le ho fatto io, una fesseria, e detto, mi ho messo le gomme, non ne ho più i soldi, la pensione, ho preso tutto quanto, come 4 gomme, 400 euro, cioè, che cacchio di gomme le ha, ho dato una matta tipo Champion, non l'ho mai sentito. E sono andato a fianco a me e ho detto, ma scusa, ma la conosci? Sì, sono gomme cinesi. E tu, quanto costa? Aspetta che te lo guardo, 64 euro. Cioè, gli ha preso più di 30 euro, 36 euro, la gomma, 3, 4, 12, 128 euro gli ha bruciato così. E già sono care, perché sono gomme che costano anche di meno di quella città. Mi ha detto, sono gomme cinesi, però queste cinesi sono, le ha portate alle cinesi tra le migliori, ma non sono confrontabili a una gomma europea, diciamo, a un Bridgestone, a un Michelin, a una gomma coreana, non lo so, a una Pirelli, che hanno, diciamo, delle omologazioni, delle durate, eccetera, eccetera. Vedi chissà con cosa la vado nella gomma. E quello è il problema. Aspetta, lasciamo un attimo il bianco se c'è qualcuno nel frattempo che vuole te. E beh, tu già c'è nato, Anto? Sì, già è l'ora. Io mi sono preso, era un po' che non lo mangiavo, un cheeseburger da... La spiga lo sai dov'è? Sì, già li conosco, già i sicurione. Perché hai avuto problemi? Si sono comportati male con noi. Ma per questione di soldi o che cosa? No, pari bomboli. E cioè? Che... gli stavo dando un prezzo tranquillo, ha preso, ha fatto il vigliacco, non è che ce l'ha detto, no, gli eravamo anche noi così, ha preso e ha cambiato, cioè ce lo potevi dire, ci arrangiavamo sul prezzo ancora, è andato lo stronzo, ce l'ha preso il cliente e poi si è comportato un pochettino male, capito, dal giorno boh. Però Antu, io sinceramente la colpa non gliela do a lui, lo conosco il padrone, la do a lui, la do al tuo collega che ha fatto il pezzo di merda, diciamo, se non si può dire, perché tu cacchio devi rispettare, se tu c'hai un cliente è come che quello quando vengono a me, ma il mio carrozziere è quello lì, quando per dire si sbattono, dicono, la prima cosa che dicono quando uno c'ha tolto, lei c'ha il suo carrozziere, per devono pagare di tasca, ce l'ha il suo carrozziere, sì, io c'ho, allora continui, gli dico andare al suo carrozziere, lui se vuol cambiare noi siamo ben disposti a lavorare, devi essere sempre corretto nel controllo verso gli altri colleghi, se fai il abramido prima o poi ti noti torno a te, ripeti. Il coso è che ce lo poteva dire, invece a prima da ciammato, se ce lo diceva lo facevamo pure noi, ed è no cavolo, a così è, invece no, è da voi poco, ha fatto pure un po' stravagante, non mi ricordo com'è andata la storia, ecco dov'è il problema. Dai Anto, io ti faccio, no, non ti, anzi non ti faccio, una persona, ma già lo conosci, già mi hai capito chi è questa persona, che ci conoscevamo da una vita, siamo stati minimo 10 anni per non dire di più che compravamo le bombole da lui, da 25 o da 15, perché avevamo la caldaia a gas, prima di avere il gas di città avevamo, mio padre ne comprava di media una alla settimana, 25 litri e sodina, perché già lo sai quanto costa quelle bombole lì. Cacchio, è stato anni e anni e anni, sempre noi pagavamo queste bombole 10.000 lire, 10.000 lire in più degli altri. Cacchio, alla fine un giorno capita uno, proprio voi mi sembra, proprio voi, cacchio, fai il prezzo. Ho detto, ma è possibile che questo qua ci ha fatto pagare una vita le bombole 10.000 lire in più degli altri? Io già ho capito chi è, Sei su, per carità, lascia perdere. Io non sto scherzando, cazzo, mica sono dinamica. Si è comportato da pezzo di merda che neanche aveva. E lui si è convinto che stesse facendo lo scontro. Dammi 40.000 lire, dammi, non mi ricordo quanto era adesso. Se ti ho preso 10.000 lire, poi potrebbero essere 8.000 lire, 7.000 lire, eravamo ancora in lire, di differenza. Ma era un bel di dinamica, poi. Vedi, tu la bomba la pagavi, non lo so, da 25. Quanto costava prima dell'euro la bomba da 25? Non ha mai consegnato con le lire, forse 40.000 lire, neanche. Buona notte a te. Ebbene, sono venuta da lì. Una buona notte, tutto lì, ciao Antonio, ciao Roberto. E è successo? Un po' muscio, sì, stanco. No, stanco, ho finito adesso le feste di banda, e quindi meno male. Funzionicchia ancora tutto. Vabbè, anche io rimango ancora un pochettino qua. E come si chiama qua? Anche io vado a fare altro, dai, a complicarci. Perché la mattina è sempre pesantuccia, dai. Ok, comunque mi hai sentito per poco, Gianfra, già ci sentiamo se coincide domani e vediamo un pochettino di farci qualche bella chiacchierata come al solito. Gianfra, saluto Gianfranco, non ti avrebbe sentito. Rientrato, Sì. Sì, ciao a tutti, allora buonanotte. Ciao Gianfranco, anche a te. E uscito, beh, ci sono persone in fuga purtroppo. Avanti, Black. Ciao, ciao Antonio, mazzo sì, o bassino da me. Avanti. Buonasera Barracuda, già ero un giorno senza sentirti, prova a indovinare chi sono. Santiago 7 mi arrivi qua, La Ussi, vero? La Ussi, è una zona di terra, è un storico, è utilizzato un lavoro. Sono anche io, riprendo io, ciao Antonio, no, sta arrivando bene, Santiago 1 per Radio 5, dove siamo di fronte, noi non ci sono problemi. Ok, no, ti ascolto sia di radio bene che di segnale, niente da dire. Sei pulito o ti stai aiutando? No, adesso sono pulito, 5 watt dell'apparato su, 5 watt di conduttore. Poi picchi arrivi a 9,5, 9 di portante e 9,5 di modulati. Ok, vai Luca. Ma Robe, allora, Lancia Y, 1200 di cilindrata, versione benzina, Gold, 69 cavalli, 51 kW, Euro 6, anno 2019, chilometri 21.000, prezzo 12.900 euro più passaggio. Ma 12.000 euro, diciamo, è un prezzo abbastanza alto, me la compareggio nuovo. Infatti, 12.000 euro più passaggio. È nuova, si vede che è nuova. Cioè potevamo fare le foto, ma non dovevate aspirarla, le tappete tutti sporchi. Andate a cagare va. Ma con quei soldi ti compri una macchina o un multijet, moto e benzina, 1200 è un chiodo, quello lì. Dimmi. Allora, quello che ha sistemato diversi apparati, che è molto onesto, è amico di Claudio, si chiama Vittorio, non mi ricordo dove si trova, c'è molto onesto come prezzi, anche se ultimamente è pieno di lavoro, un pochettino un po' più ritardato rispetto a quando l'ha fatto a me, perché a me a Claudio ce l'aveva fatto velocissimamente il lavoro, l'aveva fatto anche a Giulio, eccetera, eccetera. Ma a Giulio ha tardato un po' di più, però diciamo si può parlare tramite Claudio, adesso non so, Claudio stava mangiando, si chiede a lui se c'è il numero di Claudio, te lo fai passare, diciamo una persona abbastanza onesta, a me ha fatto un lavoro abbastanza importante e ha voluto una cifra molto molto bassa rispetto a quello che si prevedeva. No, non qua a Sassari, no, fuori stiamo parlando. Ah, ok, sì, va bene, è onesto, sì, fatto per un'intervista, diciamo c'è la garanzia che se il fatto poi lo rifare, lo è un laboratorio questo, c'ha attrezzatura, ripara apparati HF, non ripara giocattolini, Saturnetto è un giocattolo, stiamo parlando di uno che sa riparare apparati di un certo livello, abbiamo spedito apparati importanti con Claudio, molto onesto, il trasporto ti ripara le 10 più 10, ti fa una bella scatola, ti dà 6 mesi di garanzia, no, è un laboratorio attrezzato, è uno giovane, molto, molto capace, ordinato anche come pulizia di lavoro, dai. Qua sa se c'è qualcuno, però è così, diciamo, io consiglio lasciar perdere, andare su fuori. Questi Saturneco, il 99,9% sono tutti manomessi per avere qualche mezzo watt in più, eccetera eccetera, toccati di tutti i modi possibili, li vanno lasciati normali come li ha fatti la casa e ti durano una vita, pulisci se c'è qualche contatto, qualcosa del genere, tutti si mettono a manomettere per avere, anziché 5 ne dai 10, li stai tirando qualche watt in più, cioè se te ne sovraccaricando i transistor, alla fine c'hai un sacco di spurie, di armoniche, di disturbi e non hai guadagnato niente, cioè un guadagno da 5 a 10 watt è zero, nel senso non è che cambi più di tanto, se gli metti magari un amplificatore da 5 lo porti a 100, sì, ma da 5 a 10 non cambia assolutamente niente. Ma guarda, io non sono tanto amante di andare via a comprare, a toccare, dentro una scatola, tutto con quella specie di cosa come bolle, proprio chiuso tutto quanto bene, più ce ne metti è meglio, è proprio avvolto tipo la carta quella in nylon per gli alimenti, te la avvolgi tutto quanto, li metti puliti, poi questa scatola la metti dentro una scatola più grande, piena di bottiglie in plastica, tutto in giro, in modo se prende il colpi attenua un pochettino. Luca e poi Antonio. Io lo sento un po' basso Antonello, Puoi fare qualcosa Antonello? Via, adesso attacco. Io un po' bassino, segnale 3 però sei basso. Cappa, pensavo che prima mi arrivava fino a 9.10, 9.10, 9.5, 9.10, No, qua è Santiago 7. Però tanto quel tipo di radio ha una diversa ricezione per quanto riguarda il baracchino. Lo so perché l'ho avuto pure io. Ah, però anche col baracchino l'avrei sentito uguale sicuramente, perché ho fatto la comparizzazione. Anche a Dalghero lo sento quasi uguale, non ho problemi. Gaffa. Va bene. No, vabbè, guarda, questo 3009 è un gioiellino, va benissimo. L'unica cosa che devo fare, devo corteggiarmi a Gianni Doppio Rungo se mi vende i coperchi. Questi qua sono un po' graffiati. Adesso vediamo un po'. Vai Antonio, vediamo se è salito il segnale. Oh, io ti sento lo stesso, No, sempre 9 tu qua arrivi. Non arrivi a 9,5, ma adesso sei 9. Adesso faccio una radio micidiale, cioè. Adesso sei sceso a 6. Eri 7, adesso sei sceso a 6. E bisogna che lo fai scaldare. Così. prova a parlare adesso. Vedi un po', uno, due, ah, manco a me, aspetta, sbagliato, ok, aspetta, ecco qua, 1, 2, 3, troppa. La Messe è 9 più 15. La Messe è Santiago 9, 5. Dirottato con, quanto mi sta dando? Aspetta, 15 watt modulati, dai. La radio, complimenti. Luca, quando ti arriva adesso? Prova, 1, 2, 3, prova. Ah, sì, 5 a picchi di 6, ti ascolto molto, molto meglio. Ma dove, dammi un rapporto a me per curiosità. Mi organizza, se mi sto organizzando, il cavo nuovo e un tubo telescopico come si deve. L'antenna là, il dipolo lo piazzo sul tetto, vedrai che già cambia la minestra. Se mi senti così, piazzato in un terrazzo con un dipolo nel tetto, già cambia un po' la situazione. Ma tu dammi un rapporto a me per curiosità. Vai, fai un passaggio, sto usando il Cobra, vai. Ma come la lancette? 1, 2, 3, prova radio. Ora. 995 è il display, è LCD. Da 9 a 95 a picchi positivi. Vediamo quanto arriva così. Batteria Santiago 7, tieni presente che ho l'antenna in un terrazzo di polo. Aspetta che regolo qua. Ecco qua. La K1000, regoliamo questo. Oh, quindi così non va. Perfetto, dai. Cioè fermo sull'1. Santiago 7 Radio 5, pongolo da parte mia. Centro storico di Ussi. E io quanto arrivo, Antonio, guarda un po'. Più volte arrivano 2 o 3, vai. No, no, Santiago 6 e mezzo. Santiago 6 e mezzo, Radio 5. Hai visto? Io questo qua da... Cosa ne so? Dici, ne ha, cosa ho fatto questo apparecchio? Cappa, no, l'ho già... Ma io lo sento magnificamente bene qua, da Ussi. Azzetta che fa troppo, faccio la prova che sta scaldando Gigi. Con la verità sono contento, perché tu dici le antenne che ho funziona veramente bene, la verità. Per essere semplice nella sua lavorazione, la verità funziona veramente bene. Senza radiali, non è impegnativa, 2 secondi la smonti, la sistemi e la ripiazzi. E ti togli il pensiero. Che antenna è? L'avevo comprata dalla Smart Tech, non mi ricordo il modello qual è. Comunque è un dipolo AV con i tracci rivolti verso il cielo, comunque dovrebbe essere AV rovesciata. Ah, cappa. No, io sto usando la Ringolem, Anche quella è semplice come antenna, vedo che funziona bene. Allora ti sei abbassato un peluzzino. Sono abbassato? No, adesso no, sembrava una... Dimmi una cosa, ma tu stai usando una stufetta o la potenza dell'apparato? No, adesso sto usando il DV131 e il Cobra regolato a 1 watt. Questo lo puoi regolare a 1 watt o a 5 watt, perché essendo comunità europea c'ha diverse funzioni, diversi paesi europei, e dunque lo piloto sempre con 1 watt, col DV131. No, ti ascolto perfettamente. Allora, signori, adesso interrompo le trasmissioni perché devo fare altre cose, dai. Ciao Antonello, ben sentito, ciao Antonio Bombolo, ciao Luca e tutti gli eventuali amici su 10. Io chiudo, correte da parte mia. Ciao, ciao. E a capo, Roberto. Guarda a vedere a Ossi come arrivo adesso. Santiago 9 Radio 5, da 7 a Santiago 9 Radio 5, e a voglia. E hai guadagnato due Santiaghi. Va bene, buona cena, buon panino e ci sentiamo alle prossime. Ciao Robè, saluto, alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao, anch'io un saluto veloce, sto andando a vedere la TV. Ciao Antonello, ben ascoltato, ciao Antonio, Roberto e Luca, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao ciao Claudio, ci sentiamo. Cappa, è meglio, faccio un paio di passaggi con questo, perché volevo capire a Ussi come arrivavo, capito? Buonasera Claudio. No, arrivi da parte mia, hai guadagnato 2 Santiaghi, a voglia. No, va benissimo. È un bel forte. Transistorizzato? No. E tu la valvolotta, dai, già va bene, già fa piacere. Ma questo lo spinge maledettamente. Cosa fai? La raffreddi con qualche vento o la lasci così normale? Non ti scalda a te? gambe non mi scalda le mani, che faccio freddo. Ah, direttamente sento, no, io c'ho secondo l'accendo, li metto la ventola sempre. Metto la computer poggiata sopra col suo piccolo trasformatore regolabile e la metto a un certo punto, da così, se uno scalda è una cosa impressionante, anche tenendolo anche a bassa potenza, perché non l'ho mai tirato a manetta, però scalda maledizione, dunque gliel'ho sempre messa sopra. Antone, dimmi Cla. Ma hai cambiato antenna o sempre la stessa? Ma è sempre la stessa, dell'azienda che hai tu, no, no, sono troppo contento, questa, sempre il Dipolo. Mi avete bene, mi avete bene, ottimo per la truppa. Oh, col baracchino qua sei Santiago Onofre, col baracchino. Caspita. Terrazzo. E dunque è abbastanza bassa, è la verità, dunque va bene, va bene. Se dai questi risultati, sicuramente non so quanto potrò guadagnare, però riesco a colpire almeno una zona un pochettino più ampia alla fine per il punto in cui mi trovo. Oh, vabbè, cos'hai detto tu? Ho detto che qua sei quasi Santiago Nove col baracchino. Ah, cosa, Antonello? Qua lo superano. Va bene, va bene, ottimo per la truppa. Va bene, dai, vi lascio, vado a guardarmi la TV. Ciao, ciao. Ciao, Cla, ciao, io mi sono qua, Ma stai chiudendo tu? No, no, non sto chiudendo. Cap, adesso mi faccio l'ultimo passaggio e poi spengo questa fare, di noia. Aspetta due secondi, arrivo. Antonello, riprendi. Volevo provare una cosa, guarda, se cambia qualcosa così. Cappa, Santiago 6 ieri. Santiago 6? Dunque devo passare allora. Cappa, non so cosa è successo. Vedi un po'. 7. Vedi così, guarda un po' se aumenta. Sì, aumenta sì. Cappa. Vabbè dai, aspetta che spengo questa bestia che sta pompando forte. Minchia. Ancora aumentato lì a voce. Il segnale è sempre stabile il segnale. Cappa cappa, dai che lo spengo di nuovo, questa chissà cosa. Allora a me è aumentato il radio, Antonè. Stavo dicendo Antonio, da me ho aumentato anche il radio, Hai aumentato tu di radio? No, tu. Ma lo sai cos'è? Forse sono troppo lontano dal microfono, sto usando 2000+4 e sono un pochettino più vicino. Una bomba. E forse ero troppo lontano. Devo cambiare anche la batteria che scarica, ce l'ho 2 giorni questa batteria. No, c'ho il Cobra e l'MD+4, abbinato così, devo farlo a mantola. Eccomi qua. No, vabbè, tu hai fatto delle prove, e facciamo queste prove qua, io mi sono accorto che tu arrivi più forte in radio, cioè saremo più forti in radio. Perché circolarmente c'ha i fatti bassi, c'ha capito. Quando vuole radio gli abbassi i fatti della radio escono un bel forte. Però confronto a prima che era basso, ha migliorato un sacco, arriva abbastanza bene, dai. Lo so già, arriva bene sì. Adesso di sudata a Gigetto, sennò io ya. Cos'è? Quale c'hai a tutto? Quale hai? Già te lo dico al messaggio. Ehi, tanto. Vabbè, dai, manda messaggio. Tra un po' sono quel telefono. Stavo guardando su internet pochi giorni fa e ho trovato una radio, non so se l'avete vista voi, un ricevitore, una radio ricevitore, non trasmettitore, di nuova generazione, con lo schermo touchscreen da 3 pollici, dove ascolti le bande radioamatoriali, alla T25. Lo conoscete voi questa radio? Ma si è mai vista la volta? Quale radio è? Scusa, che ho mandato un messaggio a Luca. No, è una radio, è un radio ricevitore, non trasmettitore. Se non sbaglio fa da 0 a 30, AM, FM e poi le bande amatoriali. Con lo schermo c'è touch screen, molto simpatica, a vedere se la conoscevate voi. Non ho capito di che cosa stai parlando. Allora ci sono le radio ricevitori che puoi ascoltare, radio amatori, sono ricevente, non trasmettitore. Sì, che c'è, a Puglia. Ecco, mi ho trovato un modello su internet, se non sbaglio si chiama AT25. Aspetta che ora ti dico il... se... vediamo un po'. A vedere se la, se la conoscevate questo modello di radio, ecco. Aspetta che la cerco. Io no, no, sono sincero. Qua se potresti chiedere a Claudio, forse quando lo senti. Carina, perché ha... no, non lo trovo. Perché ha lo schermo touch screen, ok? Tu dici delle frequenze, poi c'è una rotella grande sul lato destro, senti la frequenza e fai radioascolto con la batteria ricaricabile, portatile, e poi puoi programmare tramite il computer un processore interno dove ci puoi mettere altre frequenze. Ah, ho capito, boh, non la conosco, non sono sincero, non la conosco. Cosa fa da 0 a 30? Sì, sì, da 0 a 30, copre tutte le bande radioamatoriali, poi AM, FM, SW, sia la dodicesima se non sbaglio, portatile, batteria ricaricabile, programmabile dal computer, antenna sua in dotazione, poi la togli e ci mette le due antenne per avere più ricezione, e non so quanti che canali memorizza, ed è molto simpatica. Ma è da gusta? 100, 105 euro, radio HF, 105 euro l'ho trovata su, su Amazon. Ma è buona. Ce l'ha il bocchettone dell'antenna per mettere l'antenna esterna? Sì, sì, all'attacco esterno, però devi avere un riduttore. Certo, la sto cercando, porca accidente. La radio HF. Sì, devi avere un riduttore, devi avere. E te la colleghi la tua antenna anche lì, dell'apparato radio, ecco. Sto cercando il modello ma non riesco a trovarlo, lo dico subito. Poi devi cercare connettore N uscita PL. Esattamente, ci vuole quello, sì, perché c'è la sua antennino e in più puoi attaccare la tua antenna, la radio. Sì, sì, sì, attacco N uscita PL, femmina. Lo sto cercando, accidente, non riesco a trovarla più. Non mi ricordo, è AT25 si chiamava questo modello. Eccolo qua, va, fa culo. ATS25, eccolo qua, devi trovare il ricevitore ATS25, te lo guardi lì su, su internet, eccolo qua, ATS25, 107,11 euro, ATS25. Su eBay trovi tutto, aspetta che te lo cerco io, aspetta. Guarda, questo ti dà un'idea, è molto piccola, però ho visto diversi video dove la presentano, la provano, e ha una bella ricezione. E in più è programmabile, touch screen, ti aggiusti tranquillamente la frequenza numerica come ti pare ti piace, ogni singolo numero, memorizzi e fai radioascolto. Simpatica, è molto simpatica. 107, qui c'è scritto AliExpress, sempre bisogna vedere se è anche affidabile questa, queste aziende qua. 107,11 centesimi. E Nara c'è il nome? Il modello è, io ho scritto così, radio HF ricevitore ATS-25, ATS-25, tutto nero, col pomellone grande sulla destra e lo schermo da 3 pollici in touch screen a colori sulla sinistra. Allora, ATS, allora, ma ATS25 SI4732 full band, radio ricevitore DSP, riceve FM, LW, MW, SW. Allora, su eBay costa 78,80 euro. 78 euro, ma di prima mano, non di seconda. No, qua dice nuovo. Però arriva dalla Cina. Ti arriva tra il 13 dicembre e 7 febbraio. Gacchio, o dovrei pagare per una dogana. E sempre anche se ti arriva pure quel problema, cioè io mi ricordo che l'avevo trovato anche su, su Amazon, almeno se che ti arriva lì, sicuramente la pagherai molto di di più, però se a me non ti arriva a febbraio, ti arriva dopo 10 giorni per esempio. Sì, comunque l'attacco N c'ha dall'antenna, l'attacco N, yes, vediamo un po', poi c'è 126, vediamo un po' qua, questa qua si dice che, questa qua è sempre dalla Germania, 17 dicembre 29, no, questo 17 dicembre 29 dicembre, 60 euro costa. Buono, bene, bisogna spulciare per trovare quella che viene di meno. No, è il tuo parere, a gusto tuo, come la vedi tu? Sincero, a me non piace, no, no, poi per il prezzo che costa, lascia il tempo che trova. Aspetta, poi c'è qua, qua, qua la prima non costa, guarda Antone, cioè, vediamo un po'. Qua lo stesso, 2 dicembre, 21 dicembre, 44 euro. 44 più 8,64. Ma mi sa che questa qua, pomellone grande, sì, sì. E 6,47,32, giusto, mi confermi? Full blend. Sì, a 3,25, esatto, poi c'è altri sigle. Poi ho trovato un altro modello che è piatto, con lo schermo molto più grande, anche con lui un ricevitore. E c'hai la scheda grafica della modulazione, è molto simpatico, anche un altro modello ce n'è lo stesso, sempre ricevitore, che ho visto in alcuni video su YouTube che molti radioamatori la utilizzano per fare radioascolto, e ha questo schermo con la grafica della modulazione a P, che è molto particolare. Ce ne sono di queste radio un po' cinesi, però vedo che molti radioamatori, ripeto, la utilizzano e ne parlano anche bene, non so, lo sto guardando diversi video, ce ne sono dei piccoli ricevitori veramente simpatici, la verità, e tutti programmabili. Lo so, a me piacerebbe avere i vecchi ricevitori di un'epoca, ma costano un botto di soldi, dunque alla fine mi piacerebbe avere un qualcosa del genere così, dai. Ma ci sono, guarda, ne ha una Marco, piccolina, carina, Marco Condor, adesso non si è fatto più sentire, l'ha presa su, piccolina, tipo una radio, una radiolina sembra, però fa un po' di frequenza è quella, l'ha pagata, boh, 70 euro mi pare, 80 euro, adesso non mi ricordo, è molto meglio quella che c'ha Marco di quella, più piccola e fa molte frequenze. Oppure stavo puntando sul Texun PL366, anzi, Texun PL368, lo stesso, molto piccola, programmabile, anche quello prende tutte le parti lo stesso, però qui rimane analogico, quello è tutta digitale, questo modello è analogico della Texun, e viene sui 70 euro, no, ce ne sono diversi modelli. Boh, bisogna chiedere, io sincero non... come si dice, non le conosco, ci vorrebbe una radio mai più seria, purtroppo quella radio lì più buona la compri e più la paghi, come ogni cosa, Antonio, avanti, riprendi. Guardi, Antonio. Oh, dimmi, guarda, mi stavo addormentando, sono molto stanco perché anche ieri ne ho finita le due. Sono rientrato. Dai, buonanotte a tutti, mi ha fatto un bel piacere, Antonello, sentirti, cavolo, dopo la marea di tempo. Dai, adesso ti sento bene, anche perché ho l'antenna sul tetto, quindi non ho problemi a arrivare a Orsi, capito? Prima era diverso. Adesso sì, a voi, ti ascolto un po' di chiaro, ha fatto piacere anche a me. Sì, ho quasi finito, ma cosa metti a tirare sull'antenna, poi ci sono come i vecchi tempi, tra un trasloco e l'altro, e poi prendi un sacco di tempo e ti devi mettere un po' la parte di chiacchiericcio, anche per passare il tempo, va bene, faccio piacere anche a me, buon riposo, ci sentiamo alle prossime allora. Ciao, buonanotte, se mangi un sonno va già, la stasera rimane la giovinità di due, mamma mia. Comunque il lavoro è finito, a proposito, finiti sono ogni volta che vado a Orsi, cavolo, sempre con questi lavori, l'altro giorno c'è stata la strada aperta. No, lo so, era un bel po' di mesi e stanno passando la fibra, per casino hanno fatto, no, adesso già è libera, sei due mesi da questa parte, dai, è libera, sì, adesso si può passare liberamente. E vabbè, lascia perdere Ussi, la 131 e la scala di gioca, ce ne sono lavori che ne stanno facendo, ma meglio così, guarda, almeno da lavoro. E tutti i cantieri che hanno aperto a Sassari con il 110% delle facciate, si vede Sassari è tappezzata di impalcature, meglio lavoro, lavoro è, ed è una cosa importante. Già lo so, Gugliato, mi rimbonteggi. No, io sono contento, la verità. Quando c'è lavoro io sono contento. Sono veramente contento. Ok, io vado, aspetta, poi vado a portarla una volta a settimana, due bomboloni, in quella casa di riposo che c'è vicino al Conad, lì. Allora Antonè, stavo facendo pannelli fotovoltaici e cappotto, addirittura anche con il serratore, quello grande che rimane giù, proprio giù all'entrata del palazzo, là, del portone. E praticamente fa funzionare tutti i condizionatori che ci sono nel palazzo. E stanno facendo quei lavori che stai dicendo tu, quel 100, com'era? 100%, come te? Il 110%, 110%, che poi giustamente le aziende devono essere in regola perché vengono spulciati ogni minimo documento, perché lo Stato anticipa, non so perché ci sono di mezzo, comunque devono essere delle aziende serie dove pagano contributi e tutto quanto. E da lì giustamente le palatine fanno le domande e lo Stato, diciamo, tra virgolette, anticipa un po' la situazione. Dunque quello è il lavoro, un amico tranquillamente l'ha chiesto, era fermo, il primo cantiere che ha trovato l'hanno preso, vaccinato, timbrato, io a lavorare, via, come i vecchi tempi, è bellissimo. Sono troppo contento, la verità, vedere Sassari un po' di movimento. E si conferma. Sì, insomma, dicevano un quarto, beh, Antonè, anch'io a malincuore ti saluto, perché oggi sono stato un po' maluccio stasera, un mal di testa atroce, guarda. E grazie a Dio mi è oddio, passato, no, sono un po' stordito, non so cosa cavolo, forse, insomma mi sono fatto un po' i capelli corti dietro, io soffro di cervicale, forse è per quello, forse un po' di freddo e mi ha fregato. I capelli, da oggi a stamattina c'ho mal di testa, può essere, chissà che in inverno bisogna lasciarli dietro, alla fine, va bene. Buona cena, che deve fare, buon riposo, li deve riposare e ci sentiamo alle prossime allora, grazie, belle due chiacchiere. Dai, a fare sentire Antonè, lasciamo sempre qua noi, dai, ciao, saluti in casa, alla prossima, ciao, stammi bene. Ciao, buonanotte. Due mi mancano, sono di nuovo perfettamente te.